Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Lo spazio tra la gente. L'estate del 2007, mentre ero a Linosa, uscì su La Repubblica un mio articolo sulle panchine, quasi la tavola delle materie di questo libro. Parlavo anche di quelle città venete e giulie in cui le panchine sono state eliminate per non far sedere i poveri e gli immigrati. Ricevetti un gentile email, che passai poi al giornale, del sindaco di Reggio Emilia, che affermava come la città da lui amministrata fosse in controtendenza, perché lì le panchine si sono moltiplicate. Ho un rapporto antico con Reggio Emilia e un attaccamento molto sentimentale. Per chi come me è nato a Parma, Reggio Emilia ha sempre dato un certo sollievo. È a soli 25 chilometri di distanza, ma anni luce dalla sua presunzione. Parma fu capitale di un ducato che comprendeva Piacenza e Guastalla, e questo, insieme alla duchessa Maria Luigia, moglie di Napoleone, l'ha ubriacata per sempre di una strampalata nostalgia. Viceversa, riconoscevo a Reggio la verità semplice di un grosso borgo emiliano con la nebbia e senza grilli per la testa, con locali dove ascoltare il jazz e un proletariato industriale. Parma invece è stata insieme anarchica e conservatrice, perché le uniche industrie sono agroalimentari, frutto di una classe e di una cultura dominanti di proprietari terrieri. Ma non avrei conosciuto Reggio Emilia se non vi avesse abitato il mio migliore amico dai tempi dell'Università di Bologna. Lo conobbi un mattino d'inverno, dopo che ebbe fatto una relazione su Benjamin e Kafka, durante la lezione di estetica di Luciano Anceschi. Alle 10:30 del mattino mi propose di andare a bere una birra e da lì cominciò un rapporto inossidabile fatto di parole e silenzi, condivisioni di pensieri, letture, conversazioni, avventure piccole e grandi, come due Bouvard e Pécuchet legati dal fascino estetico del fallire, ma emendati dal voler essere e dal voler diventare. Ci accomunavano il leggere e lo scrivere, ma soprattutto un modo di guardare il mondo e l'umano. Fu lui a farmi conoscere le poesie di Vladimir Holan, quella sul silenzio, la neve, la cucina, e a farmi amare l'ottava elegia di Rilke sul guardare l'aperto come gli animali. Parlavamo di Kafka, di Giorgio Colli, di Balzer, di Beckett, di Max Frisch. Leggevamo Thomas Bernhard a voce alta per ridere. Scoprivamo e leggevamo a voce alta anche l'aforisma Sur l'eau di Adorno, che citando Baudelaire, rien faire comme un bête, giacere sull'acqua e guardare tranquillamente il cielo, essere e nient'altro, ipotizzava l'adempimento della logica dialettica, sfociare nella propria origine, immagini peraltro che si conciliano benissimo con la panchina di un parco. Venivamo entrambi dalla lettura dei beat americani e in presa diretta ci piacevano i primi romanzi di Peter Handke, tutti quelli di Patricia Highsmith, i film di Wenders e di Antonioni. Credo che siamo andati a vedere insieme L'amico americano almeno 8 volte, affascinati dai dialoghi e dalla frase su il blu che non è più quello di una volta, detta dal corniciaio Bruno Ganz al gangster Dennis Hopper e da quest'ultimo al pittore falsario di se stesso Samuel Fuller, o da quelle che Hopper, cappello da cowboy in testa, dice a se stesso al registratore guidando per le strade di Amburgo: più divento vecchio e più sono confuso. Prendemmo la laurea insieme, il mio amico e io, sostenendo la cerimonia della discussione della tesi quasi alla stessa ora, dopo una notte bianca trascorsa a ubriacarci e a leggere poesie in pubblico nell'osteria di un paese in provincia di Reggio che sembrava il pub di Guerre Stellari. La sera stessa, dopo esserci riposati sui colli di Bologna, ascoltando Neil Young dal registratore in macchina, fondammo con altri amici la cooperativa editoriale dove uscì un libro di racconti che montammo insieme, suoi e miei, senza distinguerne l'autore. Si chiamava L'ultimo buco nell'acqua. Era il nostro primo libro. E quella notte, a Reggio Emilia, facemmo un'altra lettura pubblica con le scarpe in mano. titolo Tutto lo strano, via. All'inizio di novembre del 2007 mi trovavo in provincia di Reggio Emilia a commemorare con una lettura collettiva lo scrittore Giorgio Messori. È lui l'amico, compagno di meditazioni da panchina per una vita, scomparso, come si dice, eppure così presente. Il luogo era immerso nella campagna di Quattro Castella. Il mattino dopo lo esplorai e percorsi nella nebbiolina montante un viale che nel paese saliva in direzione del castello di Canossa. Tutta la zona è detta Matildica, in riferimento alla signora di Canossa a cui andò più o meno genuflesso l'imperatore Enrico IV. Ignoro se esistesse all'epoca qualcosa di analogo alle panchine, ma le due o tre di legno marrone poste a un lato della strada per riposarsi e contemplare permettevano di guardare la campagna, cioè l'aperto, che si sa con la nebbia acquista una qualità di infinitudine che i poeti hanno esplorato. Penso a una poesia di Pascoli che si chiama proprio Nebbia e che riprende, quasi rovesciandolo, l'infinito di Leopardi. Lì, seduto con un amico romano che di professione è storico, rimpiansi, come troppo spesso mi accade, di non conoscere i nomi delle piante che avrei potuto almeno descrivere. In fondo allo sguardo c'era una tenuta con una bellissima casa rurale, forse la casa dei contadini dell'antico seminascosto castello di Bianello, uno dei quattro della zona. Alle mie spalle la chiesa su base romanica di Sant'Antonino, dove alcuni muratori stavano lavorando a un lieve restauro. La sera prima udii qualcuno ironizzare sulle panchine che guardano il vuoto. A cosa deve guardare di meglio una panchina? Comunque si stava benissimo. E più tardi, io e l'amico non facemmo in tempo a sederci sulla panchina della strada principale, alla fermata del Pullman per Reggio Emilia, che questo arrivò subito e giungemmo in città sfogliando una campagna e alcuni centri abitati in cui, con mia sorpresa, non ci ferì gli occhi nessuna costruzione geometrile e nessun ipermercato. Quel pomeriggio potevo visitare le panchine di Reggio Emilia descritte dal sindaco. Mi portò in giro per la città il dirigente per il comune dell'assessorato alla città storica, nozione più ampia di centro storico e più aperta di spazio pubblico, l'architetto Massimo Magnani. La città pubblica è stata uccisa dall'individualismo delle villette, mi disse, e noi stiamo lavorando su questo concetto per aprirlo, mettere lo spazio in relazione con le persone, strade, parchi, piazze e panchine. Le città europee lavorano tutte su questa cultura del paesaggio. A Reggio Emilia stiamo trasformando la città in un salotto dove si abbia piacere di stare e di andare. Di fronte alla mia obiezione, per la parola salotto ho una vera e propria allergia, l'architetto aggiunse che non lo diceva in senso borghese, ma il salotto si intende solo in senso borghese, è un concetto borghese, come le carte da parati e i divani a fiori, come le piante di geranio o di aspidistra, secondo George Orwell. Ci siamo messi a camminare per le vie pedonali. Con la legge Bersani, disse l'architetto, è adesso possibile che il pescivendolo, per esempio, possa vendere fritture ai clienti e il salumiere servire del prosciutto da consumare magari fuori dal negozio. Le panchine aumentano così anche per iniziativa dei privati. Poi vidi le nuove panchine multiple, come quelle poste in piazza Casotto, dietro il comune. Disposte come in un salottino, c'erano due panchine lunghe e altre due in monoposto, che sembravano fatte per persone molto grasse. A fianco ci sono delle fioriere, rivestite dello stesso legno marrone delle panchine. Nella piccola piazza notai l'ingresso di uno spazio espositivo e una yogurteria. A Reggio Emilia le innovazioni in materia di panchine avvengono in una ridefinizione complessiva dell'uso della città storica, in un'idea soprattutto di cura della città, di manutenzione col concorso di tutti, che è il contrario del concetto pomposo di grande opera. Sono aumentate le distese, cioè le zone dei tavolini all'aperto dei bar, grazie alla pedonalizzazione delle strade. È stato proibito ai bar di usare sedie e tavolini di plastica, incentivando con sgravi fiscali l'adozione di altri materiali come il legno, il vimini o il ferro. La scomparsa delle macchine da molte zone del centro ha reso quasi irriconoscibili i luoghi agli stessi abitanti. Eppure, penso mentre cammino, tutto questo l'ho già visto in altre città a vocazione meno sociale, come Parma, ma anche in una miriade di città del nord Europa. I centri storici, le città storiche, sono diventate città commerciali e quelle fioriere mi ricordano quel concetto di arredo urbano che spesso è l'unico criterio di intervento pubblico. Com'è possibile, domanda inconfessabile, che le strade della città, in questa loro conversione ecologica e socializzante, mi sembrino più fredde, spesso glaciali? Quel giorno, passeggiando con l'architetto, mi vennero in mente infatti i centri storici delle città tedesche, ricostruite dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, dove le strade pedonali, nel silenzio in cui senti risuonare i tacchi delle scarpe la domenica mattina o nel frastuono notturno, sono totalmente occupate dai caffè e dai negozi, e dove la socializzazione, nonostante le panchine piazzate qui e là, avviene all'insegna dei consumi e del commercio, del mostrarsi tutti in una sovrapposizione di vita pubblica e privata come consumatori e nient'altro. Oggi, nelle città, il flusso dei corpi dei consumatori consumati si chiama movida e il suo movimento è prevedibile e ripetitivo ogni sera, uguale. Andiamo ora nella bellissima e metafisica piazza Fontanesi, che so essere stata un tempo una piazza adibita alle esecuzioni capitali ed è piazza del mercato di giorno. Non si vedono chiese dalla piazza, solo case con portici, ed è tappezzata di alberi, un grande rettangolo come certi squares parigini. Ho ricordi di una bellezza onirica d'inverno, con la nebbia, le mie passeggiate con Giorgio, le fotografie di Luigi Ghirri, le osterie quando c'è freddo. Noto i gruppi di nuove panchine, anch'esse disposte effettivamente come in un salotto che segua i dettami spaziali del Feng Shui. Panchine lunghe che si fronteggiano oblique, intervallate da panchine monoposto, le fioriere al posto del tavolino o della credenza. È una disposizione che incoraggia la convivenza e la conversazione, dove ci si sente sociali e al tempo stesso protetti. C'è perfino il progetto di aggiungere alle panchine dei funghi per il riscaldamento e prese di corrente alimentate dall'energia solare, utili anche per alimentare il computer. Magnifico. È stato calcolato anche lo spazio per incastrare le carrozzine per invalidi e si capisce che il modello ideale di fruitore di questi salotti all'aperto è la badante moldava o ucraina che chiacchiera con la sua compaesana, con l'anziano o l'anziana parcheggiati di fianco. Sono davvero panchine sociali. E quando poco prima chiesi all'architetto Magnani cosa pensasse di quelle città del Veneto in cui, pur non essendoci un numero di immigrati maggiore che a Reggio, hanno tolto e segato le panchine per far loro dispetto, lui mi ha dato una risposta sintetica e forse l'unica sensata. Le panchine sono di sinistra. Togliere le panchine è di destra. Perfetto. Ma chi volesse stare da solo su una panchina e magari leggere il giornale in silenzio? Non riuscii a trattenermi dal chiedergli. Ci sono ancora panchine anarchiche a Reggio o magari asociali? L'ultimo tratto di passeggiata lo abbiamo fatto verso il teatro municipale, anch'esso in qualche modo avvicinato al resto del centro commerciale da una nuova pavimentazione. Di fianco al teatro ci sono i giardini, dove una volta c'era l'unico caffè con le vetrate e una distesa fuori. Il giardino d'inverno lo chiamavano. Lì sopravvivono le panchine verdi di una volta, semplici e spartane. È noto che su quelle ci sono sedute coppie e famiglie intere di immigrati, spesso nordafricani. C'è allegria. Ora che ci penso, i salotti di Piazza Fontanesi erano deserti. Mi accorgevo anche che gli unici bambini che vedevo per strada o che giocassero con i giochi poveri del parco erano tenuti per mano da genitori dalla pelle scura oppure da mamme che avevano la testa fasciata da un velo color pastello. Ma questo è un altro discorso. Forse i bambini italiani sono troppo occupati a giocare con la PlayStation o il computer. Fu dopo aver attraversato i giardini che l'architetto si girò e mi indicò il centro commerciale dicendo: là c'è l'Europa, lì il Mediterraneo, il viale adiacente al teatro e qui il Maghreb, i giardini. Nel Maghreb mi trovavo benissimo. A fianco, di fronte a un vecchio edificio che ospita ora l'Università Europa, America, Porto Franco, su uno spazioso marciapiede dove una volta c'erano solo automobili parcheggiate, c'erano alcune panchine del solito legno marrone fatte a sdraio, o meglio a chaise longue, per allungare le gambe. Mi sono coricato lì e se non fosse stato per il vento e il freddo avrei fatto volentieri un pisolino. Non era ancora però la panchina solitaria, seminascosta, che anche il mio amico Giorgio si portava dentro, l'equivalente del nascondiglio dell'infanzia, giardino dell'anima, che lui realizzò nella sua casa a Tashkent, Uzbekistan, quando uscì da Reggio e dall'Europa. Scrisse nel suo romanzo autobiografico La città del pane e dei postini, 2005, di capire che il suo giardino fosse qualcosa che cercavo fin da quando mi rifugiavo al cesso per piangere, perfino quando era morta mia nonna e non ci sarebbe stato niente di cui vergognarsi. E se non c'era il cesso, c'era sempre il divano rosso incassato nell'armadio, nella stanza che avevo occupato dove prima stava mia nonna e che per tanti anni è stata casa mia, la mia vera casa, oltre la quale c'era l'appartamento dei miei, la camera dove andavo a dormire. E aggiungeva: ma anche fuori da quel recinto ricordo una panchina in un piazzale ingombro di macchine, il giardinetto allo scalo ferroviario, l'ultimo banco accanto alla finestra per tutti gli anni del liceo. L'acebiosas, vivi nascosto, appartato, senza metterti in mostra, consigliavano i greci. E questa è, fra l'altro, una delle pochissime cose che ancora ricordo di una lingua studiata 5 anni. Ora mi viene in mente che sulle panchine, anche nella mia città, non ho scritto solo poesie. Tra le altre tracce dei miei soggiorni solitari nel parco, per esempio, una compariva nell'Ultimo buco nell'acqua, 1983, col titolo Confessioni di un astigmatico. Descrivevo il mondo come lo si vede stando distesi su una panchina e seppi da Daniele Del Giudice, che piaceva molto a Italo Calvino. Nello stesso libro c'è una prosa di Giorgio che esprime lo stesso spirito di chi si siede su una panchina sotto lo sguardo di disapprovazione dei ben pensanti. Si chiama È un tipo losco. E quando ci scambiavamo i testi in pubblico mi piaceva molto leggerla. Nell'ufficio dove lavora è considerato una persona losca. Verso le 10:30, 11 va a un supermercato che si trova nello stesso isolato. Lì trova delle Budweiser, birre americane importate dalla Cecoslovacchia che non costano tanto. Con sé non ha mai una apribottiglia, perciò è costretto all'uscita dal supermercato a usare dei piletti di transenne per fare leva sul tappo. Così può finalmente bersi la birra appoggiato a un muretto ai margini della strada, sotto il sole. Così mi viene anche in mente la giornata con Giorgio a Reggio, quando abbiamo montato il nostro libro. Avevamo faticato invano per ore a trovare un ordine coi fogli dei raccontini sparpagliati sul tavolo della sua camera rossa nell'appartamento che si affacciava su un incrocio della via Emilia, da dove si vedevano i semafori rossi bucare la nebbia, una piccola vista metropolitana di provincia. Non ne venivamo a capo. La colonna sonora era David Bowie, Rock and Roll Suicide, una canzone che aleggiava insieme ai Kinks di Lola, Hollywood Boulevard e Sunny Afternoon su tutto il libro. Finché Giorgio si ricordò che qualcuno gli aveva regalato una pastiglia di acido lisergico. Era un azzardo. Ci sentivamo fuori da quelle cose, ma non ci pensammo più di 10 minuti prima di buttarla giù. Dopo neanche un'ora avevamo montato il libro in un ordine che ci sembrò assolutamente perfetto. L'ultimo buco nell'acqua era davvero finito. Era una sera invernale e da qualche parte dovevamo smaltire tutta quell'energia e quella lucidità. Ricordo vagamente che quella notte finimmo a Parma, a casa di un'amica, e guidare sulla via Emilia fu una specie di videogame. La regola era seguire le lucine rosse, i buoni, ed evitare le lucine bianche, i cattivi. Ma prima, a Reggio, dopo la cioccolata calda in tazza, dopo aver camminato a lungo, andammo in un cinema dove proiettavano E.T. di Spielberg. Sì, era l'anno di quel film. Fino ad allora lo avevamo snobbato, ma adesso ci sembrava una buonissima idea. Quello che seguì lo raccontai un anno dopo in un articolo intitolato Wenders, Spielberg e la scatola nera. Era uscito in effetti un film di Wim Wenders intitolato Lo stato delle cose, dove tra l'altro c'è una stupenda esclamazione: basta lo spazio fra la gente per costruire una storia. Scrissi che Wenders e Spielberg erano esattamente all'opposto l'uno dell'altro. Impossibile amare entrambi. Quanto a E.T., raccontai la circostanza della nostra visione, che grazie allo stato di lieve alterazione ci consentì di vedere dietro gli effetti speciali, ahimè, neutralizzandoli. Vedevamo dentro la scatola nera dell'operazione, all'interno di quell'altra incantevole scatola nera che è la sala cinematografica. Insomma, E.T. ci sembrò così idiota che alla scena delle biciclette che si arrampicano in cielo cominciammo a voltarci nella sala per guardare gli spettatori, i cui volti rapiti ci affascinavano più del film. L'acido è rivelatore. Gli effetti speciali, i trucchi e le diversioni appaiono nudi come una maschera che fa vedere l'elastico. Tutt'altra cosa sarebbe stata vedere, credo, Viaggio in Italia di Rossellini o L'avventura di Antonioni o un qualsiasi film di Bernardo Bertolucci. Ci avrebbero letteralmente commosso. Poco tempo prima avevo letto in un trafiletto sul giornale che a Monte Mario, un quartiere di Roma, c'erano state proteste degli abitanti perché i matti in libera uscita di una vicina clinica disturbavano gli spettatori di un cinema. Invece di guardare il film, loro guardavano il pubblico, creando turbamento. Erano matti contemplativi, non spettatori anestetizzati. Guardavano il cinema e la gente come se fossero su una panchina. Se infatti ho ricordato tutto questo, è perché sulle sedie del cinema, spettatori, io e Giorgio, ci sentivamo proprio come quando si è seduti su una panchina. E lo spettacolo diventa il mondo, nessuno escluso. Ho già detto che sulle panchine si diventa invisibili, che si gode di una specie di extraterritorialità. Extraterritorialità che è come una zona franca, una piega nella società dello spettacolo. Quel giorno, al cinema, non eravamo però così invisibili e per di più ridevamo. Uscimmo prima di creare scompiglio. Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.